Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre mi fa piacere augurarvi un buon termine di serata se ci ascoltate anziché alle 6.45 alle 20.45 in replica. Vi ricordo la mail alla quale segnalare i vostri casi. Mi raccomando che siano casi che riguardino non il singolo ma rappresentino l'interesse di più persone. Un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, su cui mi diverto a scrivere moltissimo di temi di legalità / illegalità. Si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore online. Oggi ci occupiamo di un caso che ha colpito la mia attenzione. Leggo dall'Unione Sarda di alcune settimane fa questo titolo: multati per aver pagato di più. Tassa sui rifiuti non dovuta, penalità di 7 euro. In buona sostanza, in un comune della nuova provincia sarda del Medio Campidano, il comune Sardara, c'è quella che l'Unione Sarda definisce una beffa per un centinaio di contribuenti che non avevano segnalato la morte di un congiunto o l'allontanamento di un familiare, quindi essere rimasti single. Morale della favola, il comune, per non aver segnalato queste cose, li multa nonostante le persone coinvolte avessero pagato addirittura più del dovuto. La cosa sembra abbastanza paradossale e noi ovviamente la vogliamo approfondire, al punto tale la vogliamo approfondire che l'interesse è stato destato anche dalla ripresa, che poi la notizia che poi ha dato il mio giornale, il Sole 24 Ore, con un articolo del 10 aprile in cui, tra tante stranezze, viene citata anche questa del comune. Ma per capirne di più, sapere effettivamente fino in fondo i contorni di questa vicenda, che suona appunto paradossale, ho il piacere di avere con noi collegato l'assessore al bilancio del comune di Sardara, il dottor Roberto Cadeo. Buongiorno Cadeo. Buongiorno a lei. Allora, intanto andiamo subito con la spiegazione di questa cosa che sembra strana. È vero che il vostro comune ha multato chi ha pagato di più? Allora, sicuramente non è così. Questa è la premessa. Bisogna fare un attimo di cronistoria, dunque, per cercare di capire il senso del titolo apparso sull'Unione Sarda. Allora, non è vero che il Comune ha multato chi ha pagato di più, perché la sanzione che è stata prevista e che è stata poi attribuita ai cittadini, ai contribuenti, fa riferimento ad un adempimento ben preciso, ovvero quello dell'obbligo di comunicare al Comune di Sardara la cosiddetta denuncia TARSU, ovvero, per capire, tutti i cittadini che nel corso di un periodo di imposta effettuano una denuncia, cioè una variazione, sono obbligati entro il 20 di gennaio dell'anno successivo a comunicare questa variazione all'ufficio tributi. Ecco, mi corregga se sbaglio, leggo dal mio giornale che questa comunicazione è stata fatta magari in un ufficio sbagliato, vale a dire all'anagrafe, ma molti di questi cittadini si erano, come dire, mossi per segnalare il cambio. Giustissimo. Dunque, lei ha detto una cosa parzialmente corretta, però, perché il contribuente, il primo passo che fa per andare a denunciare delle variazioni è proprio quello all'ufficio anagrafe. All'ufficio anagrafe comunica la relativa variazione. All'ufficio anagrafe, però, verbalmente viene comunicato al cittadino che tra i tanti adempimenti connessi a questa variazione anagrafica ne deve fare anche un'altra, ovvero deve recarsi all'ufficio tributi. Certamente, per dire anche a quell'ufficio: attenzione, c'è una variazione in corso, tenete conto. Però io le vorrei fare una domanda che probabilmente avrà da parte sua una riflessione analoga a quella che ha appena fatto, vale a dire, mi potrà dire che dico una cosa parzialmente corretta, quindi vista da un'altra parte parzialmente sbagliata, è la seguente: ma non sarebbe il caso che questi adempimenti fossero a carico del comune? Cioè, se io cittadino mi rivolgo ad un comune, a qualunque altra amministrazione pubblica, per dirgli: caro comune, tu sei il mio interfaccia, in questo momento il mio interfaccia è l'ufficio anagrafe, ti comunico questo, per piacere ti curi tu, comune, di fare il giro di tutti gli altri uffici per comunicare ciò che io ti ho appena detto? Vale a dire che non ho più un congiunto, mi sono separato, sono single, oppure quel che c'è da comunicare. Lei come la vede questa cosa? Allora, io dico che, dunque, che bisogna capirsi sul tipo di comunicazione da effettuare. Allora, una cosa è la comunicazione all'ufficio anagrafe, un'altra cosa è la comunicazione all'ufficio tributi. Perché le dico questo? Perché le cose che il cittadino deve comunicare non sono le stesse. Perché con riferimento in modo particolare alla denuncia a Tarsu occorre anche individuare tutta un'altra serie di parametri sui quali poi deve essere calcolata la relativa a Tarsu. Sarebbe, io dico, la cosa forse più corretta che se ne occupasse direttamente il comune di effettuare l'ulteriore denuncia una volta che ha ricevuto la variazione anagrafica. Io condivido, però è una cosa che materialmente, oggi come oggi, non è possibile effettuare. Ma perché non è possibile effettuare? Perché esiste un regolamento comunale che prevede che questa denuncia venga effettuata direttamente dal cittadino. Ma il nostro regolamento comunale discende da una disposizione normativa, che è il famoso decreto legislativo 507 del 93. No, ma lei ha perfettamente ragione che in Italia le leggi sono fatte in maniera tale da complicare la vita di tutti. Io interrompo un attimo, perché mi preme proprio sottolineare questo, che il comune in questa circostanza non può sostituirsi al cittadino, siccome è un obbligo imposto al cittadino sia dal regolamento comunale, il quale discende da una disposizione legislativa, quindi a carattere nazionale, non possiamo sostituirci al cittadino. Ecco, l'unica quindi cosa... il paradosso è questo, mi corregga se sbaglio. Sì. Le cose, il comune si è comportato correttamente, vale a dire nel momento in cui il cittadino si è presentato all'anagrafe per comunicare la variazione, verbalmente gli è stato detto: ti prego, per piacere, caro cittadino, vai anche all'ufficio tributi. Perfettissimo. Il paradosso però è che io, che mi sono recato all'ufficio anagrafe, magari non ho fatto l'ufficio tributi, ho pagato anche di più, però per questo di più pagato il comune mi, tra virgolette, rincorre e mi chiede anche di pagare 7 euro di penalità. Io non metto in dubbio che la procedura sia corretta, però... Ma le voglio spiegare anche perché ci sono questi 7 euro in più. Ecco, perché questo è poi il paradosso, no, che emerge. Giustamente, ma le voglio spiegare perché ci sono questi 7 euro in più e le voglio anche dire che gli uffici, in questa circostanza, la responsabile del procedimento, giustamente, ha seguito tutto quello che doveva seguire a livello regolamentare e a livello normativo. Dove sta l'eventuale paradosso? Ma che io non vedo paradosso, anzi, esaminandolo dal mio punto di vista, lo vedo come invece un ulteriore adempimento che è stato fatto dall'ufficio per venire incontro al cittadino. Cioè, che è successo? L'ufficio tributi, arrivati alla scadenza del 20 di gennaio, ha incrociato i dati con quanti avevano effettuato la variazione anagrafica e quanti avevano presentato la relativa denuncia di variazione Tarsu. Quando l'ufficio si è reso conto che un'ottantina di famiglie, 87 dovrebbe, se non ricordo male, non hanno presentato la denuncia Tarsu, non è che l'ufficio ha aspettato ad emettere un avviso di accertamento che avrebbe, quello sì, oberato il cittadino, perché anziché chiedergli 6 euro, ne avremmo chiesti sicuramente molti di più, almeno 8 volte in più. Certo. Cosa ha fatto l'ufficio? Ha inviato una lettera con la quale ricordava al contribuente che si era dimenticato di effettuare l'ulteriore variazione denuncia Tarsu e che aveva la possibilità di ovviare a questa dimenticanza presentandosi in comune nei 90 giorni che partivano dalla scadenza della denuncia, quindi dal 20 di gennaio. Aveva 90 giorni per regolarizzare l'omessa presentazione pagando una sanzione ridotta con l'istituto del ravvedimento. Esattamente, quindi anziché i 48 euro, 6 euro. Questo vale la pena di dirlo, ricordiamolo a tutti i radioascoltatori, in qualunque parte d'Italia essi si trovino, non basta la denuncia all'anagrafe, ci vuole anche quella all'ufficio tributi, quando c'è una variazione di residenza o domicilio, è corretto, assessore? Sì, sì, no, esatto. Questo è un adempimento che è previsto a livello nazionale. Esattamente. Ecco, vorrei chiudere con una riflessione. Mi pare che il vostro comune sia comunque molto rigoroso, lo dico con rispetto e ammirazione, al punto tale che, se non ricordo male, anche la figlia del sindaco di Sardara, il dottor Giorgio Zucca, è stata raggiunta, la figlia anzi, raggiunta da un avviso, giusto? Sì, sì, è giusto, è corretto. Neanche la figlia del sindaco è andata a effettuare la denuncia TARSU per una variazione di residenza presentata nel corso del 2008. Bene. Io però mi consenta di chiudere. Prego. Su un aspetto importante. Io dico questo, che se la sanzione fosse stata messa su una mancata presentazione di una dichiarazione ICI, io ritengo che tutto questo scalpore non si sarebbe sollevato. Invece, siccome la sanzione è stata applicata ad un tributo, io lo chiamo minore, quindi per la quale molte volte i cittadini non sono al corrente del relativo adempimento, pur avendo l'ufficio anticipato la scadenza con apposite locandine, come fa tutti gli anni, che la sorpresa nasce in questo. Nasce soprattutto da questo. Nasce, perché io dico, se lo stesso inadempimento si fosse verificato con riferimento all'ICI, io ritengo che nessun cittadino avrebbe sollevato perplessità, oppure il Sole 24 Ore, oppure lo stesso quotidiano locale dell'Unione Sarda avrebbe fatto un articolo in questi termini. Certo, io ringrazio per il suo intervento e la sua chiarezza l'assessore Cadeo, grazie in regia Giacomo Spunta, in studio a Laura Fagina, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.